24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Roberta Pellegatta e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Oggi in primo piano la denuncia del Guardian che accusa la NATO di aver lasciato morire in mare decine di migranti. L'alleanza smentisce. Poi sulla crisi in Libia sentiremo le parole del Presidente della Repubblica Italiano che striglia l'Unione Europea giudicata insoddisfacente sul piano della politica estera. Parleremo anche del lutto che ha colpito ieri il Giro d'Italia dopo la morte di un giovane ciclista belga caduto a 25 km dal traguardo. E ancora in questa edizione il nuovo taglio del rating per la Grecia, da Atene giudicato ingiustificato. E apriamo con la pesante accusa nei confronti della NATO lanciata dal The Guardian. Secondo il quotidiano britannico, tra il 29 e il 30 marzo scorsi, decine di africani su un barcone in panne sono stati lasciati morire nel Mediterraneo dopo che unità militari europee dell'Alleanza hanno ignorato le loro richieste di aiuto. Da parte dell'Alleanza Atlantica arriva una categorica smentita alla denuncia del Guardian. Per il quotidiano britannico, una portaerei della NATO, probabilmente la francese De Gaulle, non avrebbe soccorso un barcone partito a fine marzo dalla Libia e rimasto alla deriva per 16 giorni con a bordo 72 migranti. Solo 11 di loro sono riusciti a sopravvivere, tutti gli altri sarebbero morti di fame e di sete. I naufraghi avevano anche chiesto aiuto con un telefono satellitare, un elicottero militare gli aveva lanciato acqua e cibo, poi però per giorni sono stati abbandonati al loro destino, racconta padre Zerai, un prete eritreo che aveva tenuto i contatti con loro al telefono. Hanno segnalato in tutti i modi possibili, quando vedevano una nave facevano dei segni con le loro taniche vuote per segnalare che non avevano acqua, oppure alzavano i bambini per dire guardate che abbiamo i bambini, aiutateci, nulla. Fino adesso nessuno ha ammesso che li ha visti, nessuno. A Lampedusa intanto oggi i sommozzatori hanno trovato i corpi di 3 migranti vicino al barcone che all'alba di domenica era finito sugli scogli non lontano dal porto. Si tratta di 3 uomini di età compresa fra i 20 e i 30 anni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Voltiamo pagina, andiamo a Firenze dove è in corso il Festival dell'Europa ed è dove il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano ha sferzato Bruxelles. L'Unione Europea ha detto è inadeguata. Sentiamo. Stato, io credo, insoddisfacente dell'Unione come soggetto di politica internazionale. Mi riferisco al fatto che stiamo vivendo degli eventi dirompenti, carichi di possibilità e di incognite nel Mediterraneo, nell'Africa e nel Medio Oriente e che rispetto a questi eventi l'Unione Europea non è riuscita a esprimere una posizione comune, specie dinanzi alla crisi libica. D'accordo con il capo dello Stato, il ministro degli esteri italiano Franco Frattini, lo sentiamo sempre da Firenze. Noi vorremmo più Europa, in via più in generale, vorremmo un'Europa capace di non essere solo l'Europa del PIL e dei mercati, ma essere un'Europa politica, più capacità di essere solidale con i paesi in prima linea, quali ad esempio quelli mediterranei, se c'è una questione globale come l'immigrazione, e soprattutto rilanciare l'identità. Noi siamo i primi a promuovere un ruolo dell'Europa maggiore nel confronto con religioni, culture diverse, ma siamo deboli nel difendere la nostra. Ecco perché condivido le preoccupazioni e le attese del presidente Napolitano. E Franco Frattini ha parlato a margine del Festival d'Europa a Firenze, dove si trova per noi Gigi Donelli, che ci racconta cosa succede in questi giorni nel capoluogo toscano. Sì, soprattutto la prima cosa da ricordare è che veramente questa piazza straordinaria, che è Piazza della Signoria, per questi 5 giorni è Piazza Europa. Qui ci sono dei padiglioni, il padiglione delle nazioni, il padiglione dell'Europa, i padiglioni soprattutto dei giovani. È ovvio che se c'è uno dei marchi di successo della storia europea è quella di Erasmus e magari qualcuno conosce anche Comenius e gli altri progetti di formazione. Ecco, questi sono dei punti certi e il Festival d'Europa è anche un'occasione proprio per gli studenti. E poi ci sono delle novità come l'Erasmus per le imprese che è stato lanciato nel 2008 ma che comincia a prendere forma solamente in questi mesi e che di fatto non è rivolto ai giovani ma ai giovani imprenditori. Questo vuol dire che a qualsiasi età uno può aderire a un percorso di formazione e di sostegno attraverso l'Unione Europea. Il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, ha tenuto la relazione annuale sull'attività dell'Authority per la Borsa. Tra i punti toccati dall'ex viceministro, la facilità di OPA ostili in Italia. Sentiamo Paolo Piacenza. Alle prese con la sua prima relazione da presidente della Consob, l'ex sottosegretario all'economia Giuseppe Vegas ha puntato soprattutto sul binomio semplificazione ed efficacia. La prima sottolineatura ha riguardato proprio il sistema delle regole, che ha detto va semplificato calibrandone meglio l'attuazione. Prudenza invece sull'apertura delle nostre società a investitori esteri e sugli effetti dei meccanismi di difesa del nostro sistema. Ascoltiamo le parole di Vegas. Da sempre la legislazione italiana ha fortemente privilegiato la contendibilità, limitando le possibilità di difesa delle società a fronte di scalate ostili. L'effetto indesiderato è stato quello di accentuare la chiusura degli assetti proprietari delle imprese. Molti gli apprezzamenti per la relazione del presidente di Consob, dalla leader dell'industriale Emma Marcegaglia alla D di Intesa San Paolo Corrado Passera. Va infine registrata una frase del ministro dell'economia Giulio Tremonti, che ha fatto il punto sull'attuazione della norma sull'attrattività del business nell'area di Milano. Sull'operazione Parmalat il ministro dell'economia ha detto che il bilancio non è negativo, li abbiamo costretti, a un'OPA totalitaria senza colpo ferire. Già questo è un risultato concreto. Grazie a Paolo Piacenza. L'agenzia di rating Standard & Poor's ha abbassato il rating della Grecia da BB- a B, un declassamento ingiustificato secondo Atene, che arriva a pochi giorni dalle voci che davano il paese ellenico in procinto di uscire dall'euro e ristrutturare il debito. La notizia, lanciata dal settimanale tedesco Der Spiegel, era stata subito smentita dal governo greco e dai vertici economici dell'Unione Europea. E chiusura negativa per le borse europee. Francoforte ha registrato un meno 1,09%, Parigi un meno 1,25%, mentre Londra si è fermata a meno 0,57%. Chiusura negativa anche a Milano, a Piazza Affari. L'effetto Grecia lascia il segno sui listini europei, che chiudono in profondo rosso. Le perdite delle borse ieri si sono in particolare aggravate a partire dal primo pomeriggio, con il nuovo downgrade al debito di Atene decretato da Standard & Poor's. A Milano il FTSE MIB ha così ceduto l'1,3% e lo share l'1,2%, giù anche Parigi meno 1,2% e Francoforte meno 1,1%, mentre Londra ha limitato il rosso a mezzo punto. Tra le blue chip meneghine giù tutti i bancari, sui timori di un'eccessiva esposizione al potenziale crack greco. Unicredit è la peggiore con meno 3,2%, seguita da Popolare di Milano meno 2,5% e UBI meno 2,3%. Rimbalza invece Fiat Industrial più 1,2% sulle ipotesi circolate settimana scorsa, ma comunque smentite, di una sua cessione da parte di Exor, anch'essa oggi in controtendenza in borsa con più 0,8%. Ceo Condina da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore. E adesso il Giro d'Italia in lutto per la morte ieri di un giovane ciclista belga. Da Rapallo in Liguria il nostro corrispondente Pier Augusto Stagi. Sì, 25 anni dopo il Giro d'Italia deve contare un nuovo morto. L'ultimo nel 1986 era stato Emilio Ravasi a perdere la vita, giovanissimo, al Giro d'Italia. Quest'oggi la fine per il belga di 26 anni Wouter Weylands, nato il 27 di settembre dell'84. Il ragazzo è caduto quando all'arrivo mancavano 25 km al traguardo, lungo la discesa del Passo del Bocco. Si procedeva ad una velocità molto sostenuta. Dalle ricostruzioni sembra che il corridore si sia girato un attimo per controllare la situazione alle sue spalle, abbia perso il controllo della sua bicicletta e sia andata a sbattere violentemente contro il muro. E probabilmente la morte è stata anche immediata, i soccorsi altrettanto immediati, il professor Tredici dell'equipe medica del Giro d'Italia ha praticato col suo staff tutto il possibile, è arrivato anche l'elisoccorso del 118, ma ormai non c'era più niente da fare. Purtroppo il Giro d'Italia oggi piange la perdita di un ragazzo di solo 26 anni. E veniamo adesso alle elezioni amministrative in Albania, paese che si gioca l'ottenimento dello status ufficiale di paese candidato all'Unione Europea. Fiato sospeso a Tirana per il risultato delle elezioni amministrative che si sono svolte ieri in Albania. L'attenzione è puntata soprattutto sull'esito del voto nella capitale, dove Edi Rama, sindaco socialista uscente, nonché leader del principale partito di opposizione al governo del premier Sali Berisha, affronta l'ex ministro democratico delle finanze Luzim Basha. A scrutinio ancora lontano dalla conclusione è già guerra delle cifre tra le due principali coalizioni. Entrambe infatti già rivendicano la vittoria. Il risultato di Tirana è cruciale per il futuro politico del paese, che da 2 anni vive una profonda crisi istituzionale in seguito al mancato riconoscimento del risultato delle elezioni politiche e al boicottaggio in Parlamento delle forze di opposizione a causa dei brogli che sarebbero stati commessi dalla coalizione guidata Alessandra Berisse. Molti osservatori considerano dunque il voto di ieri un test di democrazia cruciale per l'avvio del processo di adesione dell'Albania all'Unione Europea. Elena Ragusin, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche una gravidanza a valenza politica. La presunta dolce attesa di Carla Bruni non aiuta Sarkozy a riguadagnare popolarità. Secondo gli ultimi sondaggi, il consenso per il presidente è sempre meno ampio. Un rilevamento citato dal Telegraph segnala che solo il 21% è a favore di Sarkozy. Inghilterra, Polonia e Francia. Alle imprese di questi paesi va il primato tra i cattivi pagatori, secondo il Sole 24 Ore. Sono le aziende messicane il nuovo benchmark nella puntualità dei pagamenti. Il 70% delle imprese del paese latinoamericano salda le fatture rispettando la scadenza concordata. All'estremo opposto le società della Gran Bretagna, della Polonia e della penisola iberica. Qui si hanno buone possibilità di incassare anche con un ritardo rispetto ai termini concordati di almeno un mese. L'Italia si colloca invece a metà classifica e nel primo trimestre del 2010 è stato registrato un miglioramento delle abitudini di pagamento, un trend che lascia ben sperare per quest'anno. Questo è il mappamondo delle abitudini di pagamento delle imprese realizzato da Cribis DNB, società del gruppo CRISF. Domani a Milano, presso la sede del Sole 24 Ore, verrà presentato lo studio Pagamenti 2011, l'osservatorio che illustra i trend e le performance delle aziende in un confronto con altre realtà internazionali. Enrico Netti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il cinema adesso, lotta tra due grandi sulla scia Cannes-Venezia. La Croisette sta per assegnare la Palma d'Oro a Bernardo Bertolucci e ieri da Venezia quasi una risposta. Il leone alla carriera andrà a Marco Bellocchio. Quasi coetanei, Bellocchio è nato nel novembre 39, Bertolucci nel marzo 41. Nati a breve distanza, Bellocchio a Bobbio in provincia di Piacenza, Bertolucci a Parma. Già il critico Mario Sesti nel 2008 li mise insieme sullo stesso palcoscenico per un duetto alla Festa del Cinema di Roma che ha fatto storia. Ora per Bernardo Bertolucci e Marco Bellocchio arrivano due dei premi più prestigiosi dell'anno. E se la notizia della Palma a Bertolucci si conosceva da tempo, quella del Leone per Bellocchio arriva due giorni dopo i David, nei quali non sono arrivati premi per il suo Sorelle Mai, presentato proprio l'anno scorso a Venezia. Un film che però riconosce ha qualche parallelo proprio con il Leone d'Oro. Così come Sorelle Mai è un film nel tempo, questo premio è un premio che occupa 45 anni. Proprio nel 65 ho fatto il mio primo film che fu rifiutato da Venezia. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Gunther Sachs si è suicidato nel suo chalet di Gstaad in Svizzera. Il noto playboy, ex marito di Brigitte Bardot, aveva 78 anni. Strano destino quello di Gunther Sachs. È morto suicida come il padre. Fotografo di grande talento e appassionato d'arte contemporanea, ma anche matematico, astrologo e imprenditore, Gunther Sachs è noto soprattutto per due motivi: per essere stato uno dei mariti di Brigitte Bardot e per essere considerato l'inventore di Saint-Tropez, nota località della Costa Azzurra molto frequentata negli anni 60 da star e VIP internazionali. Nato in Germania nel 1932, Gunther Sachs era il nipote di una dinastia di industriali dell'auto. Il nonno materno aveva fondato la Opel, quello paterno la Fitch e le Sachs. Personaggio del jet set internazionale, tra i suoi amici annoverava i Kennedy, Gianni Agnelli, Coco Chanel, ma anche artisti come Salvador Dalí e Andy Warhol. Gunther Sachs è stato anche un incallito playboy. Oltre a Bibi, che sposò nel 66, dopo averla sedotta inondando nella villa Saint-Tropez di migliaia di rose rosse lanciate dal suo elicottero, ebbe relazioni appassionate con Soraya e con Juliette Greco. Fu creatore di uno stile glamour ricercato, alla Sachs appunto, che prevedeva pantalone bianco, camicia a righe bianche e azzurre senza cravatta e mocassini neri e piedi senza calze. La notizia del suicidio di Sachs, che sembra non accettasse di essere ammalato d'Alzheimer, ha sconvolto la Bardot, che si è detta distrutta. Adriana Fracchi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura il basket. Va al Panathinaikos Atene l'Eurolega di basket. Nella finale di Barcellona i greci hanno battuto il Maccabi Tel Aviv 78-70. Ennesimo successo continentale per il tecnico degli ellenici, il serbo Zelimir Obradovic. Lo sentiamo al microfono di Nicola Cardo. No, non c'è segreto. Il segreto è solo uno: ogni giorno a palestra lavorare per migliorare. Sono contento perché questi giocatori che giocano tanti anni con me, come Casso, De Mizzo, di Diamantidis, di Costa, di Mike, di Fozis, loro sanno come trasmettere cosa è giocare per Panathinaikos, per tutti i nuovi giocatori che vengono. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie per l'ascolto e una buona giornata da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa. In collaborazione con Euronet.